Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica di Gegé Telesforo. Prontissimi, operativi dal Groove Master Studio, come sempre per il sound check di Radio 24. A tutti voi buonasera da Gegé Telesforo e ancora una volta buonasera, ben ritrovato all'archivista multimediale e tuttofare del nostro studio, Francesco Tromba. Ciao a tutti. Hai messo in ordine? Ho iniziato parzialmente. Ho notato sulla tua scrivania delle briciole di pane e qualche pezzo di mortadella. Guarda, questo non va bene in uno studio quasi asettico come il mio. Perché poi ci sa l'invasione delle formiche. È l'invasione delle formiche d'estate, anche quella è una cosa probabile. Però per favore, Francesco, cerca di essere un po' più ordinato. Va bene, dai, te lo prometto. Te lo chiedo per favore, anche perché stiamo per chiudere anche questa quarta stagione del nostro soundcheck. E mi auguro che prima di abbandonare completamente lo studio per l'estate, visto che poi anch'io me ne andrò in giro a fare concerti e magari qualche giorno di vacanza, spero di ritrovare, tornando a settembre, un po' l'ambiente così come l'hai trovato tu quando hai iniziato la produzione quest'anno. Vabbè, dai, ci provo, proverò a mettere un po' di ordine. Speriamo. Bene, oggi una puntata ricca, ricchissima di musica, tantissime novità, anche perché dobbiamo sfogare tutte le recenti pubblicazioni che abbiamo ricevuto, anche perché dopo questo weekend ce ne restano altri due. Eh sì, siamo quasi alla fine, praticamente. Siamo quasi alla fine. Purtroppo. Ti dispiace? Un po' mi dispiace. Un po' dispiace anche a me, però bisogna respirare. Ecco, dobbiamo fare anche noi una sorta di fermo biologico. Eh sì, ci vuole ogni tanto, no? Per forza. Allora, direi di iniziare subito con una novità, anticipandovi che siamo in attesa di accogliere nel Groove Master Studio un nostro amico, un personaggio secondo me fondamentale per il circuito musicale e in modo particolare per il jazz in Italia, perché questo signore dirige una rivista che ormai da anni è un punto di riferimento per gli appassionati di jazz. Questa rivista si chiama Jazz It, una gestione, come potrei definirla, da sempre più giovane, fresca. Sì, moderna, contemporanea. Contemporanea, bravo Trombo, una gestione contemporanea, e quindi aspettiamo il direttore, ma anche editore di Jazz It, Luciano Vanni, con il quale parleremo di varie cose. Tu hai tirato giù le tue domande piccanti? Sì, c'ho un po' di domande da fare. Lo devo avvisare allora che ha a che fare con Calabrese. Va bene, direi di partire subito con Eric Robertson. Sai che mi piace un sacco questa produzione di Eric Robertson. Lui mi piace tantissimo, proprio come persona, background gospel, si risente, ma questo disco è proprio forte. Ne arriveranno delle altre, perché comunque questo è il primo EP di tre. Ha diviso così il suo ultimo lavoro, come ha fatto anche già John Mayer, quindi pubblicherà questi tre EP durante tutto il 2017, quindi aspettati anche tantissima altra roba da parte di Eric Robertson, perché già questo primo EP è fantastico. Allora, io direi di iniziare con Million Dollars, forse fra i brani in questa prima pubblicazione, in questa prima mandata di produzione, è uno dei più appetibili per il grande pubblico. Poi invece sentiamo una partecipazione illustre con Glenn Lewis, ma direi di partire con Eric Robertson. Il brano è Million Dollars al soundcheck di Radio 24. This song goes out to everybody out there. Eric Robertson al soundcheck di Radio 24, in questo brano intitolato Million Dollars, che troverete nella prima mandata di produzione. Sono tre EP, come ci diceva Francesco Tromba. Brano intitolato Million Dollars al soundcheck di Radio 24, dove stiamo aspettando l'avvento, l'arrivo, la materializzazione di Luciano Vanni, direttore e editore della rivista Jazz It, con il quale abbiamo un bel po' di cose da dirci oggi, Tromba. Sì, avremo anche tante domande da fargli, perché ci vuole raccontare anche un po' come è nato e come si è sviluppato nel corso di questi anni anche il festival di Jesit. Il famoso Jesit Fest, che è una gestione tutta sua, tutta particolare, forse un'idea innovativa, ma dobbiamo anche capire noi che cosa succederà, perché il tutto si svolgerà la prossima settimana. Esatto, quindi abbiamo tante domande per lui e siamo ansiosi di avere delle risposte. Allora, in attesa, tra l'altro ha anche citofonato, quindi lo vedo qua nel video citofono, eccolo, lo saluto a Luciano Vanni. Allora facciamo una cosa, ascoltiamo subito Superman, questo è uno dei brani più forti di Eric Robertson. Sì, tra l'altro è stato anche nominato direttore della crociera che si svolgerà i primi di ottobre, la crociera di Soul Tracks, quindi ci aspettiamo. Ma quella ancora è un'esperienza da fare. Non so se a settembre torneremo a Radio 24, no? Perché ancora non abbiamo avuto una convocazione ufficiale e delle risposte ufficiali, mi auguro proprio di sì, ma se dovesse succedere potremmo anche organizzarci per andare in crociera e seguire la Soul Tracks crociera con un cast spettacolare proprio per gli amici di Radio 24. Potremmo fare praticamente quasi tutta la stagione, tutte andiamo ad aprire a Luciano Vanni che sta aspettando. Eric Robertson, il brano è Superman con la partecipazione di Glenn Lewis al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. May I Have This Dance, la nuova versione di Francis and the Lights con il featuring importante di Chance the Rapper, artista di prima grandezza in questo momento negli Stati Uniti dopo la vittoria dei Grammy Awards nell'ultima edizione. Probabilmente riusciremo, anzi questa è una domanda che mi faccio e che faccio agli amici in ascolto, magari c'è qualche promoter, qualche organizzatore di festival, riusciremo a vedere Chance the Rapper dal vivo nel nostro paese? Probabilmente no, perché il budget per coinvolgerlo è diventato importante, anche perché Chance the Rapper si muove con una band strepitosa, una super band, quasi un collettivo gospel. Bene, questo è il soundcheck di Radio 24 ed eccolo qui in tutto il suo splendore il nostro amico, direttore e editore di Jesit, Luciano Vanni. Ben arrivato. Grazie, e grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Allora Luciano, quest'anno si festeggia con Jesit il numero 100, siamo arrivati al 99, quindi il prossimo sarà il numero 100 di Jesit. Quanti anni di lavoro, quanti anni di fatica dietro le pagine di questa rivista? Guarda, abbiamo superato il 20° anno di attività, che quasi è un miracolo. Cioè, a volte ripenso alle origini, veramente in casa dei miei, nella mia stanza di casa dei miei genitori, quindi è già un miracolo e non me la immaginavo di arrivare al numero 100 in 20 anni. Ecco, raccontami un po' com'è nato Jesit. Tra l'altro anticipo che oggi ascolterei di tutto, ma assolutamente non jazz. Mi sembrava scontato invitare il direttore di Jesit e creare una puntata con un airplay jazz, invece ti faccio ascoltare novità anche per stimolare la tua creatività. Ti ringrazio. Prego, figurati, com'è nato Jesit? Mi dicevi nella tua cameretta, proprio per passione nei confronti del genere. Sì, assolutamente, passione per la musica, e avevo 23, penso, ho svelato la mia età, ok, 23-24 anni, e amavo la musica, ho sempre amato, tra l'altro partendo dalla musica classica e soprattutto sono stato sempre un melomane, quindi arrivo da lì, passaggio al rock e poi successivamente in tarda età, 18-19 anni al jazz, quindi passione verso una musica che vedevo ancora troppo così, non giustamente apprezzata, e quindi sono partito dal jazz e poi ho fatto una rivista di rock anche, però insomma il jazz è sempre stato un grandissimo amore che ho voluto onorare con questa pubblicazione. Ecco, diciamolo pure, il jazz che trova terreno fertile in Italia negli ultimi anni anche per l'apertura nei conservatori e dipartimenti di jazz, e c'è un vivaio meraviglioso ormai da sempre, i nuovi talenti del jazz italiano sono spettacolari. Ma infatti dobbiamo costruire più un pubblico che non una generazione di musicisti. Più un pubblico, ma perché il pubblico del jazz sta invecchiando rispetto invece al bacino proprio dei protagonisti? Beh, qui c'è un tema molto, molto ampio, nel senso c'è stato fatto un grande investimento, ecco, dicevi dei conservatori, sulla parte educativa dei musicisti. Dobbiamo fare esattamente la stessa cosa per costruire, per stimolare la nascita e la consapevolezza di un pubblico nuovo che ami il jazz. Mm. Comunque il jazz ancora raramente si ascolta in TV, in radio, non ci sono band liceali, no? La musica... Ma perché fa paura la parola jazz? Perché comunque è una musica non da pigri, io dico sempre, nel senso il... paradossalmente nella forma, a livello formale non è poi particolarmente complessa. No, assolutamente no. Però dato che spesso non è, è solamente strumentale e comunque basata sul, no, su lunghe fasi di interpretative, improvvisazione, richiede uno sforzo di concentrazione. Quindi e spesso i musicisti tendono a non andare verso l'ascoltatore, come spesso accade nel pop. Allora, ne parliamo fra pochissimo. Io vorrei invece che Francesco Tromba ci presentasse il prossimo brano, perché è una sua scelta. Nel senso che conosci personalmente questi ragazzi? Non li conosco personalmente, però li ho ascoltati tramite il loro promoter, quindi mi sono piaciuti, sono molto interessanti. Stiamo parlando di una realtà italiana. Sì, si chiamano Xue, sono il frutto di un collettivo, si chiama Collettivo Cerchi, che è capitanato da Alessandro Capasso. All'interno di questo collettivo, diciamo, è un collettivo di arti, quindi multidisciplinare. Il collante principale è la musica. Loro cantano in una lingua completamente inventata, la lingua Xu. La lingua Xu? Sì. Mi piace. Soundcheck. Il suono della musica. Giovani rapper crescono anche al soundcheck di Radio 24. Si chiama Buddy, ma la produzione è quella di un veterano accreditato come Ketranada, una vecchia conoscenza del nostro programma. Dall'album, anzi da un EP nuovissimo, recentissimo, intitolato Ocean and Montana, il brano era Elite. Nostro ospite al soundcheck Luciano Vanni, direttore editore della rivista Jazzit, che è arrivata al centenario, ovvero la centesima pubblicazione per questa rivista, sarà la prossima, siamo alla 99esima, e ci stavamo scaldando parlando un po' del jazz italiano, anche se poi oggi qui al soundcheck non suoneremo jazz. L'ho fatto apposta per farti sentire delle cose nuove, perché sennò uno sente sempre le stesse cose, no? Assolutamente. È aprire, vero? No? Aprire le orecchie, sei sempre dentro l'attualità. Allora, ci stavamo raccontando con Luciano un po' com'è cambiata la comunicazione sulla musica negli ultimi anni, ma anche perché proprio gli artisti sono maturati e ragionano in maniera diversa. In Italia che cosa sta succedendo? Parlando proprio di musica in generale, non solo di jazz, che poi è la materia che tu conosci meglio, proprio perché chissà quanti CD e quante produzioni arrivano in ufficio da te, però come si organizzano oggi i musicisti per una produzione discografica e nella comunicazione del loro progetto? Sai, è sempre difficile dare, qui dobbiamo dare una media, no? Dobbiamo dare una visione che magari non è omnicomprensiva, però la tendenza è di pensarsi indie anche da major, no? Indie nel senso indipendenti. Indipendenti, cioè avere un taglio, un pensiero di tipo artigianale. Beh, nel jazz siamo tutti indipendenti, cioè, siamo sono avanti. Pochi gli quanti artisti italiani sono sotto contratto priority con una multinazionale? Beh, uno forse. Chi è? Beh, Bollani? Forse Bollani. Adesso Universal, no, perché anche il nostro amico Paolo Fresu ha capito che doveva essere veramente indie e ha si messo è costruito su la sua label, no? Ecco, pensa che io una cosa che ho fatto più di 25 anni fa. Che poi non è solamente una label, adesso, no, è riduttivo, perché dietro c'è licensing. Un collettivo? C'è qualcosa di più, ripeto, quello di immaginarsi il futuro con le proprie mani. Questo per certi versi limita l'orizzonte, no? Perché l'executive producer ha sempre fornito delle indicazioni. Però la tendenza, e se si pensa anche a Adele, Pharrell Williams, Taylor Swift, quindi ad artisti di fama e accreditati, adesso c'è la tendenza di volersi sentire artigiani, voler completare il cerchio della propria idea di musica, che va a licensing, promozione, comunicazione. Infatti ho sempre pensato che se si guarda con meno snobismo, no? Anche all'attività di Adele, Taylor Swift, troviamo dei fattori assolutamente innovativi e rivoluzionari. Tipo? Ma parlo dal fatto che hanno rinunciato a Spotify, ad esempio, e hanno venduto, hanno fatto record di vendita di pre-selling proprio per scelte apparentemente rivoluzionari da indie. Penso al fatto che comunicano i tour esclusivamente sui social, penso al fatto che decidono la crew con cui lavorare. Quindi ecco, secondo me se il futuro è una sorta di ritorno a un artigianato di grande qualità. Ecco, per quello noi amiamo, poi torniamo a Chance the Rapper, perché è un artista che è riuscito ad aggiudicarsi il Grammy Award senza neanche pubblicare fisicamente l'album. E altri fanno esattamente il percorso inverso. Ovvero? Quindi, nel senso di lavorare solamente, no, su fisico, o comunque puntare su altro tipo di produzione. Però la cosa interessante è che è una scelta determinata dall'artista. Ma dimmi una cosa, perché io noto che in Italia anche i giovani artisti sono ancora legati al supporto fisico, a questa cosa di voler stampare il CD. A te che cosa arrivano in ufficio, CD o MP3? Guarda, ho visto negli ultimi 6 mesi mi sono arrivati CD che non posso collocare negli scaffali. Non entra. Perché hanno tutti formati assolutamente particolari, esclusivi, quasi fatti a mano. Questa è una tendenza molto con tiratura limitata. Altri invece mi indicano direttamente un indirizzo da SoundCloud a Spotify, quindi, o YouTube. Ecco, sempre più il video è determinante anche non solo nella comunicazione, ma nella distribuzione. Eh sì, l'immagine è importantissima oggi, e non so se hanno un'immagine, io fisicamente non li conosco, però il sound è potentissimo di questi signori. Si chiamano Thank and Bangas, brano intitolato Quick. Attenzione, perché velocemente anche noi dobbiamo andare all'informazione di Radio 24 e poi dare il via alla seconda parte del nostro soundcheck. Di chi stiamo parlando, Tromba? Sono i vincitori del NPR Tiny Desk Contest, i membri delle Thank and Bangas si sono conosciuti a New Orleans durante delle jam session. Le cantanti e le vocalist, diciamo, sono abbastanza imponenti fisicamente. Yeah, questo è il soundcheck di Radio 24. Quick! Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Dopo l'informazione di Radio 24, eccoci qui pronti dal Groovemaster Studio per la seconda parte del nostro soundcheck, che oggi vede nostro ospite Luciano Vanni, il ritorno al soundcheck del direttore e editore della rivista Jazzit, che da qualche anno si è andato a impelagare anche con un'altra iniziativa interessante, ovvero un festival, ma un festival di jazz o di musica molto particolare, molto diverso dagli altri, proprio nell'impostazione e nella gestione. Forse nelle prime edizioni c'erano delle perplessità, ma col passare del tempo questo Jazzit Fest è diventato un vero e proprio fenomeno e anche un esempio nella gestione di una vera e propria tribù di musicisti e di creativi che ogni anno si riuniscono in un paese. La cosa bella è che proprio protagonista del Jazzit Fest non è soltanto questa tribù di musicisti e di creativi e di giornalisti che partecipano in maniera assolutamente spontanea e naturale, quindi senza un vero e proprio ingaggio, ma ci faremo raccontare in che modo vengono affiliati, ma protagonista diventa proprio la città. Sì, è un festival innovativo nella gestione, abbastanza bizzarro. Io ho partecipato l'anno scorso e andrò a Feltre, in provincia di Belluno, la prossima settimana, proprio per verificare di persona che cosa succederà, da curioso quali sono, ma anche da artista, perché ho dato la mia disponibilità a varie iniziative, proprio perché trovo il festival molto interessante, quasi geniale. Ma abbiamo delle domande da farti, mio caro Luciano Vanni. Quindi esatto. Che cos'è il Jazzit Fest, quanti anni ha, che tipo di gestione particolare avrà quest'anno a Feltre, in provincia di Belluno? Allora, compie 5 anni, questa è la quinta edizione, nasce in Umbria e poi è diventato itinerante, quindi ogni anno si muove e raggiunge una regione diversa, un comune di una regione diversa. Ecco, raggiunge, qualcuno sceglie la regione e il paese. C'è una call, c'è una call, mi sono arrivate delle call in questo caso da un musicista, Gianio Mirti, piemontese, da un titolare di un club, Nicolò, a Feltre, dell'Unisono Jazz Club, e da una scuola di musica che è l'Accademia Musicale Federiciana di Andria. Quindi sono call, mi arrivano persone che hanno visto l'esperienza e che vogliono portarla nella loro comunità. Ecco, allora, che tipo di esperienza? Come funziona? Trattiamo la prima parte, quindi trattiamo la prima parte, perché adesso è abbastanza complesso. Raccontare il Jazzit Fest gestione. Sì. Quindi l'idea di base, il concept di base, allora, qual è? L'idea di base nasce all'indomani di un concerto che ho partecipato in un club. straordinaria musica, ma un luogo con pochissimo pubblico, e ho sentito una sorta di asfissia, nel senso sono stato addolorato dal fatto che c'era qualcosa che non funzionava. Per me la musica è una cosa molto importante, per me è un valore sociale molto rilevante, e quindi ho pensato di fare un evento che fosse poco evento ma molto cultura civica. Cioè, ho sempre pensato che la musica avesse un valore sociale oltre che estetico, quindi la mia idea era quella di dare un appuntamento, nessuno è invitato, ma raccolgo delle candidature, ci sono musicisti che invitano altri musicisti, dare un appuntamento per 3 giorni, si vive e si condivide un'esperienza creativa, ci si incontra, si scambiano esperienze, si parla di musica, si sta bene, tutto questo in relazione a una comunità locale che ospita, accoglie e coproduce, cofinanzia e co-comunica l'evento. Ecco, quindi ospita, è una interazione ospita tra proprio due comunità. Perché i cittadini, in questo caso della città di Feltre, mettono a disposizione proprio le loro case, le loro stanze, i loro letti e la loro generosa ospitalità. Io volevo proprio ricollocare il valore del musicista all'interno della società civile e dimostrare che spesso, anche per mia passione, io mi piace girare, vedo infiniti borghi, infiniti paesi che spesso tendono a non diventare, a diventare inattivi, tendono a perdere l'orgoglio di sé, no? A perdere il senso del bene comune, della propria collettività, e quindi ho utilizzato la leva dell'arte, della creatività e della musica come strumento di accensione civica. Quindi cosa succede? Che per attendere il fatto che una comunità accoglie, si trova a accogliere questo evento, quindi quest'anno saranno oltre 400 musicisti da 3 continenti, il 75% non li conosco neppure. E la cosa bella è che vivranno un'esperienza inclusiva con gli abitanti. Ci sono 280 famiglie che hanno aperto la casa anche per la prima volta per accogliere persone che non conoscono, musicisti. Quanti sono quest'anno i musicisti e 430. Gli addetti ai lavori? Quanto? 430. Mamma mia! Vengono, sì, da 3 continenti, ci saranno una 60 dall'America, ci saranno dalla Sud America. E la cosa interessante, quest'anno vi confronterete anche con una comunità di 35 attori, ci sarà una rassegna off, perché semplicemente Corti Teatrali ha detto veniamo anche noi, benvenuti. Vabbè, non mi dire tutto adesso, aspetta un secondo, direi di andare alla musica e poi riprendiamo il discorso. Francesco, direi di mettere in onda Everything is Recording con la partecipazione di Sanfa, il brano è Close But Not Quite. Soundcheck, il suono della musica. Forsaken, brano tratto dall'EP di Laura Mish, sorella di Tom Mish, chitarrista cantante inglese, anche lei. Sì, forse il sound di Laura Mish è un po' più accattivante per noi di quello di Tom Mish, che è più patinato, vero? Sì, diciamo è un po' più pop quello di Tom, del fratello, però lei è responsabile di tutti i sassofoni, i fiati nei lavori di Tom. Eh sì, perché è una sassofonista la ragazza anche, sì. Oltre ad essere cantante, compositrice e tutto fare, fisicamente come me. Ma aspetta, ti faccio vedere una foto. Fai abbastanza vedere. Bene. Com'è? Ma è bionda, è carina. Sì, pure. Sì, carina. Simpatica. Vabbè, insomma, molto anglosassone, eh? Eh sì. Vichinga quasi. D'altronde è sempre nata a Londra, quindi. Certo. Bene, Luciano Vanni è il nostro ospite al Soundcheck di Radio 24, direttore della rivista Jazzit, ma anche responsabile del Jazzit Fest, una sua idea, una sua creatura, questo festival particolare che quest'anno vedrà una tribù di oltre 400 fra musicisti addetti ai lavori spostarsi nella cittadina di Feltre, in provincia di Belluno, dove la prossima settimana, 23, 24 e 25, si darà vita alle residenze creative. Sì, io la domanda che vorrei fare, diciamo, di solito un festival c'ha un budget a disposizione e poi si crea un cartellone. In questo caso non è il caso assolutamente del Jazzit Festival, quindi ti volevo chiedere dal punto di vista economico come viene gestita. Allora, questa domanda dovrebbe essere posta, no, a mia moglie. Però la logica perché è questa. Perché lei è l'amministratrice? No, perché a volte mi guarda strano e ancora forse non lo capisce come non lo capisco io. Però il punto è questo: responsabilità, condivisione e compartecipazione. L'obiettivo è quello di attorno a un evento che di solito è pagato dall'amministrazione, no, o da qualche sponsor, è quello di creare una sorta di responsabilità, attivare i cittadini e renderli protagonista di un'azione condivisa, nel senso che io ho aperto, fondato una banca ideale, la banca di sviluppo culturale, e praticamente le risorse, insomma, per pagare SIAE, tutti i costi dei stage, vitto, alloggio, del festival, io non faccio altro che stimolare la cittadinanza e gli appassionati a donare piccole quote per dimostrare che le cose, tutto ciò che viene fatto deve essere compartecipato e è una responsabilità collettiva. La cosa interessante è che alla fine, ecco il significato di banca, è perché restituisco alla comunità locale una serie di interviste ai loro cittadini. Abbiamo fondato l'archivio della memoria civica, quindi con le risorse io mi coproduco l'evento, quindi con queste risorse generate dalla comunità mi coproduco l'evento e offro alla comunità una sorta di documentazione video del bene comune della comunità. Ecco, naturalmente però consideriamo una cosa, mio caro Luciano, che hai la generosità dei musicisti. Assolutamente. Quello è fondamentale, perché i musicisti non vengono ingaggiati, quindi si esibiscono gratuitamente, spontaneamente. Ecco, mi piace di più dire bravissimo. Spontaneamente, per partecipare a un evento e condividere quindi musica, bellezza e sorrisi. Assolutamente, perché l'idea è quella di uscire fuori dal concetto di performing, no? Dal concerto. Infatti, innanzitutto non c'è direzione artistica classica, nel senso nessuno è chiamato, ma c'è il desiderio di partecipare. Si partecipa non un giorno, ma tre giorni, e si partecipa, ripeto, per incrociare le strade e le esperienze con una tribù, come dicevi te, di altri colleghi. Quindi è un momento un evento non muscolare, non ci si presenta. Tu lo sai che io partecipo con la mia band. E questo è un vero regalo, no? Assolutamente. No, lo faccio perché anche i miei compagni di avventure musicali mi hanno detto: ma vogliamo venire pure noi? Venite e ci esibiamo tutti insieme. Però è una cosa che si può fare ogni tanto. Cioè, sì, ma è un happening. Il mio manager impazzirebbe, ma se te vai in giro a fare queste cose. No, però. Ma infatti il concerto non è la parte rilevante. Tieni conto, ad esempio, viene Leonardo De Lorenzo e farà tutta una residenza all'interno dell'ospedale di Feltre per portare musica in corsia. Viene Cettina Donato e lavorerà con l'attore Nini Bruschetta per ragionare attorno a musica e autismo. Beh, anch'io ci vengo per Sounds for Children. Gigi Telesforo, appunto, porta la testimonianza di UNICEF. Cioè l'obiettivo è di dimostrare che il musicista ha un valore sociale e ha questa funzione anche, che è greca se ci pensiamo, no? La musica era pedagogia per certi versi. Attraverso la musica si costruiva un cittadino democratico e migliore. Quindi l'obiettivo è il fatto che la presenza degli artisti sta cambiando i comportamenti di una comunità locale. E quindi è una grande testimonianza di responsabilità sia civica che creativa. Bene, domani al Soundcheck di Radio 24 vi presenteremo la nuova produzione dei Moonchild. E quindi vogliamo anticipare con un brano splendido intitolato Show the Way quello che succederà domani a partire dalle 19:15 qui su Radio 24. Che band Moonchild! Quest'anno con questo album Voyager hanno fatto veramente un salto di qualità. Sì, è uno dei miei preferiti in assoluto. Quindi non perdere la puntata di domani. Soundcheck, il suono della musica. Think Twice, il sound di Elbows, artista che anche Luciano Vanni, direttore della rivista Jazzit, ma anche coordinatore del Jazzit Fest, non conosceva. Sì, perché oggi qui al Soundcheck abbiamo suonato diverse novità, alcune delle quali neanche con Shazam potevate rintracciare. Quindi vi tocca proprio all'antica prendere carta e penna. Tu utilizzi ancora carta e penna, Luciano Vanni, quando scrivi gli articoli o prendi appunti? Quando utilizzi carta e penna per la spesa? Ma lo sai che non so più scrivere, cioè mi capita spesso che se devo affrontare due righe, cioè faccio difficoltà ormai solo a battere sulla tastiera. Dobbiamo riprenderlo. Ecco, ma parlando di tecnologia, quanto è stato importante l'utilizzo della tecnologia, dei nuovi media, dei social network per la diffusione del marchio Jazzit e anche la promozione del Jazzit Fest? Fondamentale se si pensa che, vabbè, personalmente ho tolto il telefono e le mail, quindi utilizzo esclusivamente tutte le pagine Facebook dove c'ho tutti i miei redattori, i miei collaboratori, quindi Messenger come posta di email, WhatsApp come, come messaggistica, quindi ha cambiato totalmente l'ordine dei fattori comunicativi. Per Jazzit è fondamentale anche perché una delle tecniche che abbiamo introdotto col Jazzit Fest è quello di andare a impronta zero. Utilizziamo allestimenti totalmente biodegradabili, utilizziamo appunto legno, non abbiamo escluso PVC e plastica per 3 giorni nelle piazze, insomma, laddove si suona e si vive l'esperienza del Jazzit Fest, e la comunicazione è solamente con hashtag. Quindi hai annunciato ai musicisti che devono anche pulire dopo le performance e le residenze creative? Assolutamente no. È la cittadinanza che fa quadrato su se stessa. Tieni conto che tutti i luoghi dove voi andrete a vivere e a sperimentare sono stati rimessi in piedi dai cittadini. È da settembre che fanno azione di rigenerazione urbana, ci sono blocchi di cittadinanza attiva che vanno a ripulire, a ripristinare spazi. Ad esempio c'è una bellissima residenza di Lucrezio De Seta, un batterista, che trasforma un palazzo in una TV station all'interno di un palazzo morto da anni che è stato ripulito dai volontari. Quindi è un modo, ripeto, è molto educazione civica. L'artista viene e rimette in vita così spazi, e diciamo è un po' lo strumento per migliorare e rendersi una comunità. Ecco, tu parli per il Jazzit Fest dell'organizzazione di residenze creative. Esattamente di cosa stai parlando? Fare assieme, condividere. Cioè, l'obiettivo era quello di dire: vi do l'opportunità di registrare, produrre, scrivere nuova musica assieme ad altri. Ogni musicista può fare delle call, si stanno incrociando, no? Si stanno incontrando dei musicisti per vivere 3 giorni anche scambiandosi esperienze di produzione. Appunto, tieni conto che quest'anno ci sono 3 case che sono trasformate in studio di registrazione. Tutto quello che si produce a royalty free, perché appunto nasce dalla generosità e dalla collaborazione gratuita dei musicisti, e quindi appunto ci sarà 3 giorni di evento creativo. Bene, ci sarà un programma, ci sono 430 artisti più o meno, c'è un programma? Forse riuscirà a tirarlo fuori 4 giorni prima, perché... Quindi insomma fra qualche giorno avremo notizie di cosa succederà a Feltre 23, 24 e 25 per le residenze creative del Jazzit Fest. Il prossimo artista, tromba? Sì. È una artista di base anche lei a Londra, si chiama Niloufer Yanya, non so se la pronuncia è giusta perché lei ha origini turche, irlandesi e anche delle Barbados, ha realizzato solo 2 dischi per il momento, è giovanissima, 22 anni. Soundcheck, il suono della musica. Un'altra bella sorpresa, perché questi ragazzi sono residenti in Italia, esattamente a Genova, e firmano il loro progetto sonoro come Tech Noir. Penrose Stair qui al Soundcheck di Radio 24. Eh sì, loro sono Alexandros Phoenix, che è un polistrumentista ma principalmente un chitarrista di origini greche, e Jennifer Villa, che è la vocalist, si occupa anche di tutti gli effetti vocali. Ecco, complimenti ai Tech Noir, mi è piaciuta molto la loro produzione. Eh sì, sono molto bravi, hanno un sound secondo me anche molto internazionale, molto ben curato. È vero, e quest'anno, a proposito di internazionale, sarà un'edizione internazionale quella del Jazzit Fest a Feltre 23, 24, 25 in provincia di Belluno, dove ci ritroveremo, perché ci saremo anche noi con tutta la crew di Sounds for Children Super Band, con Sebi Burgio, fratello Joseph Bassi, Dario Panza e Alfonso De Ida, insieme a altri 430 strepitosi personaggi, ecco, perché non sono soltanto musicisti, artisti, ma ci sono anche compositori, giornalisti, insomma gente che vive di musica e per una volta all'anno si riunisce per condividere il piacere di stare insieme. Fra l'altro ti do una novità, ci sarà Enrico Pieranunzi, Giovanni Tommaso, dall'altra parte dell'oceano viene Ashley Khan, Graham Grammy Awards per il giornalismo musicale e ci porta un film, il film di Lee Morgan. Quindi, che meraviglia! Ecco, la cosa bella è che ogni anno vedo persone felici, felici di rincontrarsi, di sentirsi io collettivo, quindi non più una comunità di artisti isolata, frammentata e magari un po' narcisistica e spigolosa talvolta, ma una comunità che davvero in quel momento laggiù sente di essere forte e bella. Mi va di dirlo e di esclamare alleluia, alleluia, alleluia. Grazie a Luciano Vanni, grazie ci vediamo a Feltre a allora la prossima settimana. Assolutamente, grazie. Noi grazie a Francesco Tromba. Francesco, alleluia, perché sta per arrivare Logic. Qua bisogna tirare il volume a palla, metterlo a palla. Sì, bellissima produzione questa del rapper Logic. Attenzione, ci sentiamo domani alle 19:15 sempre su Radio 24, domani puntata speciale dedicata al nuovo album dei Moonchild.